Okay. It's five, baby. Ok. Here. Noi siamo quelli che I got you. Vengono dal sud Italia, quelli che ti fanno saltare tutte cose dall'aria. Noi siamo quelli che vengono dal sud Italia, quelli che ti fanno saltare tutte cose dall'aria. Vengono paesi che sicuro mi viene patrina matrica, mi cresce con pietre e patate. Non sole che mi guaria di giornate, una luna che mi illumina come lampione di strade. Sentiamo buone a Napoli regino. Io siciliano in Palermo crescevamo, un sole in capitio se su la città mia. Mi chiamasse terrone preferisse fossia, mi chiamasse delinquente perché c'è mafia nella terra mia. Signor tenente chi tocca passo su cazzi mia, e non venirmi a dire quello che devo fare. Se temo te non chiatare, si può ballare a palla. Ni poi tante tante fa ballare in capa panza. Quale uomini ripanza, che rispetto se mi su la cavalanza. Per altro che ballare. Where do I come from? Where do I come from? Where do I come from? Where you from? Listen, where you from? Where do I come from? Where do I come from? AKA Dick Sniff. Where do I come from? Only Smoke Crew. Siete ma buona ca, sì. Su suono ma da sfuga, sì. Pia schiaffone che sta strumentale finché non mi faccio variare. Si parla che rima e non faccio casino, sto figlio a buchino perché a saccio fare. E questo chino e medaglie in un chilo e ti faccio mappino, tu lasciami fare. E vedi con me che tengo a varre, io saccio che è troppo buona. Parla con me, rima che re, tengo calore lo sole. TS in goppa traccio, faccio che stai me cocore. Se schiaffo tu non faccia la caffa con un terrone. Chiamami mancipat, chiamami pure schifat. Ma non mi chiama se mi circranare perché domenica non ho trovato. Venga una terra inguinata, venga una terra malata. Venga una terra da tutti chi l'aveva già c'hanno passata e ce l'hanno rubata. Re problema nostro, a voi non ve ne fotta. Pensate sulle cazzo vostre e non facci malotte. Non guardate giù e voi sentite sempre a groppo. O beh non stiamo sud ma voi state sempre a sud. Vengono dal sud Italia, quelli che ti fanno saltare tutte cose dall'aria. Noi siamo quelli che vengono dal sud Italia, quelli che ti fanno saltare tutte cose dall'aria.